qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, il pianto il riso è menzognero. La donna è mobile qual piuma al vento, sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile qual piuma al vento, pensier, e di pensier.